L'amor che muove il sole e l'altre stelle. Buonasera radioascoltatori di Exalge e benvenuti a questo secondo episodio di Alma. Stasera sono qua con un ospite speciale. Ciao a tutti. Che è Francesco Colombo, detto Coli, fonico per scelta e socio Exalge per passione. Così mi sono presentato. Che è colui che ogni volta con passione e amore aiuta chiunque voglia far sentire la propria voce e condividerla col mondo qui ad Exalge. Quindi voglio rivolgere il primo ringraziamento a lui. Grazie a te Harry per l'invito. E quindi ho ciancio alle bande, bando alle ciance. Ho iniziato questa puntata con una fine, che è il verso finale del Paradiso e verso finale di tutta la Divina Commedia di Dante. Perché? Può sorgere la domanda: che cosa c'entra col nome di questa puntata, che è Vibrazioni e Suoni? Dante dice: l'amore che muove il sole e le altre stelle. Spesso asserisco che l'amore non è nient'altro che presenza e attenzione. Quando io amo qualcosa, qualcuno, un lavoro, un evento, una relazione, sono presente, ascolto e sono lì per quella persona, quel lavoro. E quindi credo che l'amore non sia nient'altro che attenzione. E come parlavo giusto prima con Francesco, dicevo che ciò che permette una vibrazione è un perno, un punto fisso che ne permette, che permette l'oscillazione. E credo che e quindi l'attenzione non è nient'altro che il perno, l'attenzione, l'amore non è nient'altro che il perno che permette l'oscillazione. E tutto ciò che vibra, per favore chiedo correggimi se sbaglio, tutto ciò che vibra produce un suono. Ah, confermo. Per tutta la puntata assolutamente umano e non è il mio campo scientifico, quindi chiederò all'ospite. E quindi si può dire che tutto ciò che è vivo vibra. Tutto ciò che, dalla più piccola molecola, dal più piccolo atomo, tutto ciò che vive, tutto ciò che si muove produce una vibrazione. E quindi tutto ciò che vive e che vibra è, si può dire, per primo, l'unico termine che al momento mi viene, è sottoposto a attenzione, quindi ad amore. Quindi tutto ciò che vive è amato. È amato da quello che si può chiamare comunemente Dio. E quindi tutto ciò che vibra produce un suono. Ecco, io vorrei già fare una prima domanda che mi sorge spontanea. Come mai tutto ciò che vibra produce un suono? Beh, allora, per quanto riguarda la, la pura natura del suono e soprattutto anche per quanto riguarda le nostre orecchie e come funzionano, tutto ciò che vibra crea uno spostamento nell'aria che si propaga nello spazio e per ascoltarlo ti serve una qualcosa che riceve questa vibrazione e che ne viene in qualche modo influita. Nel caso delle nostre orecchie è il timpano. E che non è nient'altro che una membrana tipo un tamburo, giusto? Esatto, è una cosa molto sottile che in qualche modo, qua dovremmo avere anche un medico, che in qualche modo trasmette al cervello le vibrazioni che avverte e le trasforma in suoni. Bella. Quindi c'è questo spostamento, questa comunicazione che avviene per, diciamo, se si va sotto forte, lente, l'ingrandimento, funziona tutto per vibrazioni. alla fine, per spostamenti che... Sì. Io poi prima ho detto aria, ma in verità le vibrazioni si propagano in qualsiasi materiale, quindi che sia aria, acqua, solidi, e come sappiamo invece poi nello spazio, che in teoria è il vuoto, lì non c'è rumore, non c'è propagazione. Bello. Quindi non c'è amore. Non c'è amore, merda. Oh cavolo. Oddio. Quindi solo nelle stelle, nei pianeti, in tutto ciò che può essere toccato, in tutto ciò che ha un campo, c'è amore. Questa è una chicchetta che ho scoperto l'altro giorno, che in realtà il tatto non esiste. Quindi può essere collegato, cioè non esiste il tatto, ma in realtà quando si tocca qualsiasi oggetto, qualsiasi cosa materiale, in verità è il contatto tra i due campi di forza che ogni molecola, ogni atomo produce. Quindi è la differenza di potenziale, credo, che produce, come due pile che quando hanno lo stesso campo si respingono, sì, ma non si toccano. Effettivamente credo che a livello microscopico può esserci, c'è sempre qualcosa tra due superfici che si ritoccano, e probabilmente è quello che ti dà la percezione del contatto, non magari il contatto stesso. Quindi può essere vero. Che figo, madonna, queste cose mie. È bellissimo andare nel profondo dell'esistenza. E quindi si può anche... Ha detto una cosa di cui assolutamente vorrei parlare in questa puntata. Premessa: oggigiorno si parla molto, diciamo, in maniera che può essere chiamata magari sminuente, in maniera new age, di come c'è bisogno di tenere alte le vibrazioni tra di noi, perché se si tengono alte le vibrazioni, la vita che ci circonda, la realtà che creiamo, ciò che attraiamo, sarà bella a sua volta. Quindi se tengo delle vibrazioni alte di felicità, di amore, di miracoli, non farò altro che attrarre persone o eventi miracolanti. E quindi perché? Cioè, vorrei anche un po', diciamo, osservare meglio queste nuove, diciamo, scienze dell'occulto, nuove scienze di cui si parla tanto, che sono collegate quindi alle vibrazioni e ai suoni della scienza, diciamo, moderna, scienza tradizionale, più di quanto si possa pensare. Perché prima dell'episodio, di come un certo suono può essere sentito solo in alcune condizioni. Cioè, se io produco un certo suono, questo suono non può essere percepito da tutti, o da tutti i materiali, o da chiunque, ma solo a chi possiede delle componenti o possiede la certa vibrazione. Vorrei chiederti più a livello scientifico, a livello di studi di fonetica e suono. Ma allora, sì, un po' come dire, cioè, mi viene in mente la classica parabola dell'albero che cade nella foresta, ma se non c'è nessuno ad ascoltarlo. Come se non fosse mai esistito. Esatto. Quindi effettivamente, probabilmente, se andiamo a un livello metafisico, il suono esiste fin tanto che c'è qualcuno che possa ascoltarlo. Nel campo tecnico, chi ascolta i suoni sono i microfoni. E sono apparecchi ideati e inventati appunto con questo scopo qua. Nel pratico funzionano in maniera abbastanza simile a quello che è il nostro orecchio, ovvero hanno delle capsule all'interno che sono generalmente sospese all'interno di campi elettromagnetici, e che quindi questo le rende molto sensibili agli spostamenti dell'aria, e la loro vibrazione viene poi convertita in differenze di potenziale elettrico, e questa commutazione fa in modo che il suono possa essere registrato, amplificato e ricevuto, insomma. Ok. E mi viene domanda, cioè, ad esempio, come mai un orecchio umano non può sentire tutti i suoni, come un occhio umano non può vedere tutti, tutte le sfumature dello spettro della luce. Un orecchio umano non può sentire tutto. Tipo, ci sono alcuni suoni che noi umani non possiamo sentire, ma che i cani possono, certo, che altri animali possono. Quindi si può dire che il materiale o la composizione di un corpo permetta l'ascolto o no di certe frequenze, di certe vibrazioni? Beh, direi di sì, direi che fa parte proprio della sua composizione naturale. Per esempio l'orecchio umano, in teoria, nelle migliori condizioni, quindi magari ad esempio un orecchio perfetto è di un bambino appena nato che non ha mai subito particolari traumi alle orecchie. Diciamo che lo spettro udibile nell'uomo si configura tra i 20 Hz e i 20.000. Okay. Hertz è un'unità di misura che significa quante volte al secondo si registra questa vibrazione. Ah, quindi è il ritmo della vibrazione? Sì. Cioè del movimento? Sì. Ok, quindi il suono, cioè... un suono si definisce a seconda del ritmo a cui il materiale vibra, cioè il tempo di vibrazione di un materiale ne determina il suono. Il tempo di vibrazione, allora... C'è il ritmo, scusa, il tempo. Sì, sì. I suoni sono composti da tante di queste vibrazioni, perché emettere soltanto una frequenza è una cosa che fanno praticamente... in natura non esiste. Ed è una cosa che fanno soltanto i computer e prima di essi i sintetizzatori. Quindi l'emissione di una singola frequenza, diciamo che in natura non esiste. E, però, scusa, qual era la domanda? Cioè, è questo che cerco di collegare da vibrazione a suono. Mm-hmm. Cioè, cos'è che determina il suono prodotto da una vibrazione? Cioè, è il tempo, l'elasticità di un materiale, la composizione? Credo siano tutte cose che poi alla fine messe insieme ne determinano, come dici tu, il suono. Però sì, è effettivamente quante volte al secondo le molecole di cui è composto vibrano. Ok. Wow. Ok, fantastico, bellissimo. Ritornando a prima, qualsiasi cosa vive vibra, quindi anche si può essere certi che qualsiasi materiale, anche se non lo sentiamo, produce un suono. Da solo è difficile, perché come hai detto tu all'inizio, a livello primordiale il suono viene prodotto dal pendolo, e comunque il pendolo crea un movimento, quindi senza in teoria un movimento o una differenza di potenziale che può essere probabilmente anche che poi si traduce anche in calore, perché comunque sappiamo che tutto quello che si muove produce calore. Un oggetto in sé non ha un suono, dipende da come reagisce agli stimoli questo oggetto. Ok. Bello, bello, bello, bello. Super interessante. E ecco, giusto per... grazie di tutte queste chicchette. Cavolo. Ci mancherebbe. Io poi sicuramente farò molti errori e anche le mie proprietà lessicali sicuramente peccheranno su tanti aspetti, però comunque in linea, prendete quello che dico, in linea abbastanza generica e ampia. È tutto nutrimento, e anzi invito chiunque stia ascoltando o chiunque ascolterà la registrazione del programma di andare a cercare, parlarne, vedere, giusto per... Ricordo che il programma si chiama proprio Alma, perché Alma vuol dire nutrire, quindi tutti questi pezzettini e queste chicche che vengono date anche a Francesco, che sia nutrimento per mi viene poi mi collego a quello che stai dicendo, perché c'è un'altra cosa anche interessante, ovvero che non so se tutti gli oggetti, ma sicuramente No, sì, direi tu quasi tutti gli oggetti, però è strano, da immaginarsi. Però esiste la frequenza di risonanza, che consiste che, diciamo, tutti gli oggetti e tutti gli spazi, o comunque il tutto, ha una frequenza di risonanza, che ovvero significa che quella frequenza viene in qualche modo amplificata rispetto a tutte le altre, e quindi crea una sorta di risuona su se stesso. Posso fare degli esempi più pratici per capire questa cosa qua. Ad esempio, oddio, difficile. Difficile, mi viene più facile per gli spazi, perché per il mio lavoro le risonanze sono ciò che determina un po' la... È come fare la taratura di una cassa di una chitarra. Okay. All'interno cioè la cassa della chitarra viene fatta in quella maniera perché per la sua... di più il suono. Perché per la sua forma riesce a far risuonare delle frequenze che sono poi per noi gradevoli e udibili. Però la stessa cosa si può applicare a spazi come quelli della cassa di risonanza, molto più grandi. E questo è dato dal fatto che le frequenze rimbalzano sulle superfici. E forse questo, perdonami se interrompo, forse questo è proprio il motivo per cui nello spazio non c'è... Ah, beh, non si sente il suono. Potrebbe. Perché non ci sono oggetti che aiutano il suono a rimbalzare. Potrebbe essere, ma credo sia anche dovuta alla composizione stessa di ciò che è fatto lo spazio. Che quindi, cioè, non avendo molecole, che non avendo mezzi di trasporto. Mezzi di trasporto. Viaggiare. Esatto, nel nostro caso, comunque l'atmosfera è comunque qualcosa di palpabile ed è composta da determinate cose. Ossigeno, azoto. Esatto. Tutti questi cose qua permettono alle onde di propagarsi. Comunque, per tornare a quello di prima, esatto, sappiamo che ci sono le risonanze, che sono dello spettro delle frequenze che vengono in qualche modo amplificate rispetto alle altre, e in qualche modo si genera una sorta di accordatura, si potrebbe chiamare. Cioè c'è un'armonia quasi, che alcuni materiali, alcune stanze, alcune circostanze che... Sì, di base promuovono. tutto okay. Per come è dato a livello strutturale, al suo interno ha delle armoniche. Ok. Motivo per cui vengono scelti alcuni materiali piuttosto che altri. Non so, le corde sono tutte fatte pressoché di metallo. Certo. Che come le casse sono fatte tutte di legno. Certo. Ok. Che figo. Adesso mi sorge una domanda, giusto? Prima di passare ancora allo spirituale per un momento. Quindi, se mi ricollego a quanto detto prima, che come il calore, cioè la vibrazione crea calore, il movimento crea calore e suono. Quindi, e come mai, mi viene da dire, come mai, non so, ad esempio, la resistenza di una lampadina non crea un suono? Beh, in verità lo crea. Sì? Sì, se metti, adesso non i LED ovviamente, ma... Tipo i funghi che ci sono nei ristoranti o nei bar, surriscaldandosi così tanto... Mm. Non dovrebbero produrre un suono comunque anche... Sì, generalmente infatti producono un suono molto elettrico, che sicuramente va sull'ordine dei 5000 Hz in su, okay. E che credo molto spesso si traduce anche proprio nella quantità di corrente che ci passa all'interno. Effettivamente la lampadina, per come la conosciamo noi, no, non emette dei suoni. Però quando i voltaggi sono più alti, ad esempio i fari dei teatri, quelli fanno un gran casino. Ah, quindi è come siamo costantemente immersi in rumori che magari non si sentono tanto, che però ci sono. Certo. Mi viene in mente, com'era quello di Tesla, come si chiama quella palla enorme che la bobina, che tipo l'hanno usata anche in alcuni film, tipo L'apprendista stregone, mi ricordo. Certo, no, c'è anche un bel film. I suoni. Sì, esatto, perché poi in base alla corrente che ci metti dentro, detto molto in maniera molto grezza, in qualche modo credo venga restituita con dei suoni e con appunto delle frequenze. Che così è come funzionano i sintetizzatori alla fine, cioè a seconda della corrente del voltaggio che inserisco dentro producono suoni diversi. Beh, credo che lì sia un filo diverso, lì c'è proprio, ci sono dei si chiamano sintetizzatori perché sintetizzano delle onde che vengono generate. Quindi ci sono più stadi all'interno dei sintetizzatori. Lì c'è proprio, cioè generalmente ci sono delle modulazioni di frequenza che fanno in modo di alterare e modificare le onde che questi generatori trasmettono, che in generale sono di tre tipi: sinusoidale, che è un'onda morbida, come un po' come le onde del mare, a dente di sega, quadrata e triangolare. Esistono onde quadrate del suono? Non esistono se non in campo elettrico. Wow, quante cose. Grazie, cavolo, grazie. È bellissimo sentire tutte queste, vedere un po' come funziona il mondo. E quindi grazie a queste indicazioni, grazie a queste parole di Francesco, si può vedere come il suono e le vibrazioni siano presenti tutti i giorni, ogni secondo, ovunque nel mondo. Sì, dalle nostre case, sì. Qualsiasi spazio, qualsiasi... Sì, sì, il suono è una bella... Si prende una bella fetta di quella che è la nostra esistenza. Che poi, un po' come magari hai detto tu anche prima, i colori. Cioè, non per forza uno ci fa caso o analizza colore per colore di ciò che lo circonda, però... esistono. Anche il colore dipende dalla vibrazione che emette il corpo. Esatto, però esistono e ce li abbiamo intorno e fanno parte di noi in qualche modo. Tutto questo. Infatti una cosa che direi che tesizza queste affermazioni del fatto che i suoni, le vibrazioni siano così presenti, la dà anche il campo, si potrebbe dire, con meno tesi al mondo della realtà, che è proprio la religione, per il fatto che sia la Bibbia, sia nell'induismo, che per favore se qualcuno conosce altri libri religiosi che comincino così, lo dica. La Bibbia inizia con il principio era il verbo, anzi... L'ho preso, me lo sono scritto per leggerlo, per avere il testo nudo e crudo. Che anzi, dove sta? Okay. Dove sta? Dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il verbo, ecco, per dire anche noi, ogni volta che parliamo produciamo una vibrazione e produciamo un suono, perché le corde vocali vibrano con l'aria che ci passa attraverso e producono un suono. Esatto. Quindi al Vangelo secondo Giovanni in principio era il verbo e il verbo era presso Dio e il verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. Quindi questo si può ricollegare anche al fatto che ogni colore possiede una vibrazione diversa. Mm-hmm. In Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. Wow! Adoro andare a vedere tutti i vecchi testi di come oggigiorno si possa con dell'interesse arrivare a collegare la scienza alla religione in maniera così fluida. Ed è bellissimo. E giusto appunto, anche l'induismo. Nell'induismo c'è l'om, che è anche un'unità di misura, l'om. L'om, sì, è un'unità di resistenza. Sì, esatto, è vero. E c'è quello che intendo io è l'om che si fa prima e dopo le meditazioni, prima e dopo delle sessioni di yoga, comunque prima e dopo questi momenti sacri. E l'om è come dire alfa e omega, è l'inizio, la vita e la fine. Quindi questa nascita, questo, è il tutto e il nulla, diciamo che è un microcosmo in un suomo, questo aum, che è molto simile anche al nostro amen cristiano, alla men, che deriva dall'amen ebraico e che deriva dal che deriva dall'amen ebraico e è comune al all'amin islamico, che vuol dire in tutte e tre le situazioni vuol dire verità, è certo, è così sia, è vero, come, come il walla, cioè come... E quindi c'è questa cosa sia nella religione che anche in scienza, di come tutto ciò che si muove vuol dire che c'è amore, c'è attenzione, quindi vuol dire che c'è un Dio e che la prima, diciamo, manifestazione di questo amore, di questa attenzione di Dio è una vibrazione, un movimento, e tutto ciò che vibra produce calore e suono. Ecco, domanda. Viene prima il calore o il suono? Allora, nel, per quanto riguarda i materiali assorbendo energia che può essere tradotta in suono, si scaldano e poi, cioè, emanano calore che poi può essere di entità minuscole e magari anche impercettibile, però effettivamente è come dire nato prima l'uovo la gallina, un po' sì, perché se c'è la vibrazione in principio, che poi essa possa essere anche udita e quindi possa avere una entità sonora, credo arrivi dopo. Ok. Quindi forse prima c'è effettivamente il calore, sì. Quindi la luce. Quindi magari, anzi, viene prima la luce del verbo, del suono. Infatti, comunque, come scientificamente viene, si pensa, si teorizza, per conseguenza tutto è partito dal Big Bang, da un grande scoppio di una massa, di una singolarità che a una certa ha raggiunto un punto tale da esplodere e dare vita a tutti i materiali, a tutto ciò che esiste, e non solo a livello materiale ma anche a livello di radiazioni, a livello di vibrazione. Fatto sta che si è registrata e si può registrare tuttora la cosiddetta vibrazione di fondo, che è la radiazione conseguente al Big Bang, quindi a questa esplosione, come se ci fosse stato un grande PAM a inizio del mondo, dell'universo, che adesso sente ancora di sottofondo e continua a propagarsi. Certo. E continua a creare questa espansione, probabilmente anche il calore che c'è nell'universo, probabilmente anche il movimento che c'è nell'universo deriva tutto da questa prima vibrazione, da questo grosso secco PAM, Big Bang, da questo bang iniziale che continua ancora a espandersi e chissà fino a quando si espanderà. Si può dire anche che l'universo è suono, è tutto un grande bang. Per fare le misurazioni per fare misurazioni di tipo acustico all'interno delle stanze e quindi capire dove, quali sono le frequenze di risonanza, come dicevo prima, si usa questa tecnica che si chiama impulse response, che di fatto è un'emissione di un suono, diciamo, molto piccolo, molto breve, e attraverso il microfono si guarda il decadimento nel tempo che ha le frequenze di cui è composto questo suono qua. Quindi si analizza una, ovviamente sono piccoli frangenti di tempo, ma che sono sufficienti a farti capire, in base al decadimento delle frequenze, come quella stanza è composta. È composta, esatto. Come è un po' tipo le colocche degli animali, tipo il pipistrello. No, loro vanno per rimbalzo, credo. Non ti so dire effettivamente di quello. Che sarà perché da piccolo mi sparavo Geo in Geo e tutti i possibili programmi di Piero Angela, Super Quark. È giusto che sono alcuni animali, tipo i pipistrelli che non c'hanno occhi, o i delfini che c'hanno sto melone sulla capa, per cui mandano delle vibrazioni. E da che mi ricordi, cioè, mandano queste vibrazioni e a seconda di ciò che è presente nello spazio rimbalza in un certo modo, no? Cioè, certo, se non ci fosse un corpo, questa roba qua non rimbalzerebbe, andrebbe a perdersi. Mm-hmm. Mentre invece c'è questo eco che ritorna indietro, e quindi loro dicono: ah, cavolo, a 50 metri c'è un coso fatto di carne perché è rimbalzato in un certo modo pure. Esatto. E sono le 18:18, quindi bella vibrazione, ragazzi. Giusto per ritornare un po' all'esoterico ogni tanto. E quindi questa vibrazione di... Oddio, adesso cerco di ripigliare un po' di fil rouge. Questa vibrazione di sottofondo, che viene anche chiamata il vagito dell'universo, che è un nome che adoro, che mi ricorderò sempre la mia professoressa di scienze al liceo, Elena Scortecci. Le mando un po' di good vibe, che è giusto, lo descriveva come il vagito dell'universo, questa vibrazione di fondo che continua a perpetuarsi e si può ancora registrare. E, giusto, quindi in principio era il verbo, in principio c'era la vibrazione, in principio c'è la... Che differenza c'è? Adesso mi chiedo così, non credo sia campo tuo, non penso sia campo tuo. Che differenza c'è tra radiazione e vibrazione? Probabilmente la radiazione, ma vado totalmente a intuito, implica qualcosa che venga radiato e quindi propagato. Okay. E magari la vibrazione può essere anche soltanto il punto d'inizio, la okay, l'elemento scatenante. Ok, ah, vedo, probabilmente. Bella. Quindi, però un'occhiata alla scaletta devo anche darcelo, perché ogni tanto talmente un putpurri di cose di cui volevo parlare anche... Ecco un'altra cosa importante sempre per trovare, diciamo, i ponti tra scienza e religione è le preghiere e i mantra. Giusto che prima parlavo di Amen, Om, Amin, Amen, comunque del verbo in generale, di quanto potere abbiano le vibrazioni, di quanto potere abbiano le parole, e di come anche prima, non a caso volevo chiedergli questa, feci questa domanda a Francesco prima, del fatto di come c'è una risposta, o comunque non tutto può ricevere certe frequenze, certi suoni, di come, giusto per ritornare anche un po' sullo spirituale, come se vibra una certa energia, quindi se le mie molecole, le mie molecole vibrano a una certa frequenza, creerò un certo suono, diciamo, emanerò una certa energia, cioè no, l'energia crea, vabbè. E quindi potrà essere udito solo da alcune persone. Questo potrebbe riconnettere, anzi, questo si può riconnettere più alla psicologia. Cioè, ci sono per traumi, per come io, come chiunque, come Francesco, come qualsiasi persona, avendo ricevuto dei traumi, che siano a livello uditivo, fisico, anche a livello psicologico, posso percepire alcune cose, alcuni gesti, alcune vibrazioni, alcuni, non so, gesti di amore, alcune volte no, alcune volte li traduco proprio etimologicamente parlando, cioè li tradisco, perché magari una persona mi dà amore o fa certi gesti che però io, a causa del trauma, quindi per un qualcosa che ha, diciamo, ha tirato una botta alla mia psiche o al mio corpo, tradisco il vero senso di quello che sto ricevendo. Mm. O di quello che mi viene comunicato. E quindi è questa cosa qua può anche spiegare il motivo per cui, vibrando a alte vibrazioni, io attragga certe cose nella mia vita. E alcune volte, credo che sia capitato a tutti, tipo in storie d'amore o in storie con genitori, che anche quelle sono storie d'amore, con gli amici o così, di attrarre, e c'è sempre un po' quella sensazione di, lo sento che quella persona ha delle belle vibrazioni. Mm-hmm. Anche se le situazioni sono in un certo modo, e c'è quel livello per cui si sente, però le parole dicono altro. C'è, non so, c'è ogni tanto un non so come dirlo, qualcosa che dice, cavolo, ma io lo sento che c'è qualcosa di buono, c'è qualcosa di... È vero. Di amore. Potrebbe essere anche, come hai detto, cioè, se comunque dal calore e quindi dal movimento si emanano delle vibrazioni, considerando che comunque siamo corpi che producono calore, magari anche soltanto il modo in cui lo produciamo, le parole, come vengono dette, sicuramente il tono. Penso abbia una grande influenza poi sull'altro questa cosa. Bellissimo. Invece non so se dico sei bellissimo o se dico wow sei bellissimo. Cambia anche quando si dice una persona ha una voce calorosa o un qualcosa. Beh, fa certo. Un effetto completamente diverso, come le stesse intenzioni. Nelle puntate precedenti avevo parlato anche di intenzione, di come un'intenzione possa essere percepita. Quando sento Madonna c'è delle belle energie, perché un'intenzione e le energie non possono essere falsificate, come certo. Un suono, se sento un certo suono non posso dire ah mi fa bene mi fa male, se un suono può disgregare il corpo di un oggetto, di una persona, come quando si usano le vibrazioni per far fuori un tumore. Penso che sia, cavolo, ci voleva sì un medico, c'avevi ragione. Concordo, come delle certe vibrazioni distruggono certi corpi, altre invece nutrono, fanno bene. Certo. E sicuramente siamo molto soggetti a queste e a qualsiasi tipo di vibrazioni. Basti pensare che alla fine nei film, ad esempio, e quindi in ciò che vediamo, ti ringrazio. Vinello. Voi non potete vedere, ma Harry appunto mi ha appena offerto un po' di vino. E diciamo, nei film, quando il nostro corpo ha la pelle d'oca, non è per le immagini, wow, ma è sempre per il suono. Veramente? Sì, certo. Oddio, questa è la figata. Ma anche, ovviamente, anche per le canzoni, cioè, nel senso, la stessa cosa avviene nella musica, però quando il nostro corpo reagisce è per i suoni che sente, non per le immagini. Ma che figata. Ecco, questo me lo ricordo sempre grazie alla professoressa di scienze, quella che si chiama orripilazione. Poi viene da dire che infatti orripilo, che si riferisce ai peli che si alzano e la pelle d'oca. Ma quindi, cioè, adesso mi viene in mente, quando i gatti proprio fanno che tirano sul pelo e cose varie, è per un suono, una vibrazione di una persona, non tanto per un qualcosa che vedono. Effettivamente, punto. Certo, poi comunque nella vista di sicuro non è il senso più sviluppato, no, nei gatti. Quindi potrebbe essere anche soltanto il suono o la percezione di quello che li circonda. Quando si vedono gatti che fissano il vuoto, ma non c'è un cazzo, almeno apparentemente. Magari stanno ascoltando. Magari invece stanno vedendo cose o personaggi che noi non possiamo vedere, ma che loro sentono benissimo. Mi era venuto in mente qualcos'altro anche di interessante, ma me lo sono dimenticato, ovviamente. Niente. Era collegato alla cosa di prima, appunto, delle... dei peli. Ah no, scusa, dei gatti. Bella. I gatti, per le fusa dei gatti, sono una cosa strettamente collegata al loro sentimento che stanno vivendo, al trasmettere calore, al... cioè comunque è un sintomo appunto proprio di affetto, di felicità e di affetto, ma che si traduce poi effettivamente in un suono. Sì. Che bello. Che infatti mi ricordo di aver letto proprio su Focus, un giornale come questo, una rivista di queste, che c'è, hanno proprio un pezzo di cartilagine vicino tipo alle corde vocali che vibra, che fanno vibrare e produce quel suono tipo moca che sentiamo normalmente. Cioè hanno proprio non lo sapevo questo, un pezzettino fatto apposta che facendolo vibrare fa e così esprimono il loro godimento incredibile per l'affetto. Anche questo è bellissimo, come veramente il suono traduca le emozioni, di come sia importante, anche di come invito chiunque stia ascoltando, chiunque arrivino queste vibrazioni, di, anche se la vostra voce trema, di dire la verità, cioè di esprimere i sentimenti, che siano di felicità, di paura, di pensiero, qualsiasi cosa sia, perché tutto ciò di cui tutta ogni parola che viene, cioè Gesù, giusto per tirare in mezzo una persona a caso, si può tirare indietro ogni, ma cos'è che diceva, per, non mi ricordo letteralmente, ma può essere tirato tutto indietro tranne una pietra o una parola. Cioè nel senso, forse non ha detto nemmeno Gesù, vabbè, lasciamo fare. c'ha sempre le mani in pasta comunque. E dico, perché proprio le parole, anche quando si dice ferisce di più, cioè che una parola può ferire di più di, no, cos'era, una penna può ferire di più di una lama, non mi ricordo più, nel senso che una parola, certe vibrazioni fanno male, cioè possono fare molto più male di una ferita al corpo. Quindi è bello anche questo, per invitare a tenere alte le vibrazioni, perché sono proprio i pensieri, le nostre intenzioni, ciò che sentiamo dentro a creare la realtà che ci circonda. Anche questo per, anche questo per far notare, Dio, se ci sta ascoltando la CIA o l'FBI, spero non mi rapiscano stanotte, cioè nel senso il potere infinito che ogni essere possiede, proprio parlando di questa cosa, di come siamo noi a produrre la nostra realtà, cioè a produrre, a generare la nostra realtà. Certo, verissimo questo. Cioè che ogni parola, ogni vibrazione che produciamo, che generiamo, attira qualcosa che volente o nolente chiamiamo. Anche per quello ci vuole, è importante fare terapia, meditazione, respiro, non ha importanza che sia psicologo, che sia terapeuta, che sia un monaco, che sia... fare questo viaggio dentro se stessi per essere consapevoli, qua mi riconnetto alle mie pratiche di meditazione che mi hanno portato anche a voler fare questo programma radio, consapevolezza di quali sono le mie intenzioni, le vostre, le nostre intenzioni e perché faccio certi gesti, che non ci siano scondi fini, ma non per fare del buonismo, ma per dire la responsabilità della nostra vita è solo e solamente del tutto nostra. Piuttosto che dire un vaffanculo qualcosa, piuttosto che dire è bello, anche leggo molto spesso, per quanto il lato bello dei social, che ogni tanto se uno segue il flow di un buon algoritmo vengono fuori post belli e nutrienti della serie di quanto bene possa fare una parola, di quanto bene possa fare una scelta diversa al momento, di come dire un qualcosa piuttosto che l'altra possa veramente risvoltare una giornata anche solo una persona. Tipo il momento, adesso sto andando troppo nel flow, adesso cerco di ripigliare il filo rullo, tipo mi viene da dire. No, beh, una cosa importante comunque mi è venuta in mente è, tanto importante è, come hai detto tu all'inizio, comunicare e quindi mettere suoni, ma forse è quasi più importante saperli ascoltare e quindi carpire o ricevere o comunque appunto allenarsi nel capire che cosa ci circonda. Infatti che stavo provando un po' a cantare ultimamente con dei video su YouTube, tutti i maestri condividono il punto che per imparare a cantare o a capire il suono bisogna sempre partire, per il canto in particolare, dalla respirazione e dall'ascolto. Una persona che è brava col suono, piuttosto che a produrlo o a farlo uscire dal proprio corpo, di ascoltare, saper ascoltare. Certo. Tantissimo. Una delle prime pratiche per capire e addentrarsi nella psicoacustica, wow, è proprio quella di mettersi in qualsiasi luogo in cui ci si trova e scrivere banalmente o annotarsi in qualche modo ogni suono che sente che lo circonda. Quindi di in pratica esporre le proprie sensazioni a seconda del... No, non sono sensazioni, ma proprio cioè descrivere i suoni che stai sentendo, cioè che stai ascoltando, che possono essere la lavastoviglie, la bicicletta che è passata. Però comunque fare questo e allenarsi a farlo è un po' come se risvegliassi delle... certi percorsi neurali. Sì, senti, ti stimola l'attenzione e ti aiuta a notare molte più delle cose che ti circondano rispetto a quanto lo si fa normalmente. Bella. A proposito, c'è una meditazione che faccio molto spesso, che sia guidata quando ci sono persone con cui mi incontro, che si chiama proprio la meditazione dei suoni dei pensieri, perché si passa all'inizio da un'attenzione sul respiro a un'attenzione ai suoni che circondano senza giudizio, quindi li ascolto e li catalogo, li descrivo a seconda della lunghezza, del calore, della durata, del se sono bassi, alti, acuti, profondi, così, per poi passare a fare lo stesso, diciamo, catalogazione con i pensieri, perché funzionano proprio allo stesso modo. Cioè il corpo li percepisce allo stesso modo. Cioè c'è un pensiero magari che è la voce di una persona che quando ero piccolo diceva sempre sei un coglione, un professore, un genitore, così, e nella mia testa lo sentirò come un bau, bau, bau, quando medito, prima di andare a letto, quando sono più rilassato. Magari ci sono certi pensieri che sono più profondi o passano due secondi, tipo un ciao che ci ha colpito di un amore passato, cose così, i suoni, uguale allo stesso dei suoni, proprio perché sono dei suoni che magari sono scolpiti nella testa, certo, che hanno stimolato certe parti e continuano a riprodurli. Infatti mi viene da dire, l'altro giorno stavo parlando con una persona e c'era questa persona che diceva, ah no perché io sono ignorante, ah no perché sono stupido, e dicevo, ma dove? Cioè perché lo stai dicendo? E lei mi diceva, perché tu non sai quante volte mi è stato detto in passato, quanti sorci verdi ho visto. E dicevo, ma adesso quella persona non c'è più. L'unico oggetto, l'unico strumento che sta continuando a riprodurre quel suono, quella vibrazione cattiva, negativa, è qua. È il tuo cervello. Quindi, per favore, notalo che sta accadendo questa cosa, che è il motivo per cui adesso la tua vita non può andare avanti e c'è sempre questa restrizione, perché il tuo cervello continua a risuonare a quelle vibrazioni e continua a riprodurle. Quindi ti capite mai? Cioè quando ci sono persone che magari senti, ah sono uno stupido, ah cazzo sono un cretino, che quindi il continuare a ripeterlo continua a buttare in certe, è come uno strumento che continua a ripetere la stessa cosa. Certo, cioè mi sembra tutto logico quello che stai dicendo. Sì, può essere molto dannoso o molto proficuo. Essere consapevoli dei momenti. Come infatti oggigiorno ci sono un'altra corrente che stanno molto, sono le cosiddette affermazioni, che su YouTube se uno scrive good affirmation o affirmation to become rich, vanno prese con le pinze inizialmente, però ci sono registrazioni di ore e ore di voci soavi, di voci, uno può trovare tutte le voci possibili, immagino. Magari adesso lo fanno anche con l'intelligenza artificiale, ma non credo che possa essere diversa la produzione della vibrazione di un, cioè la vibrazione di un'intelligenza artificiale da una umana, cioè il calore di una voce o del suono. Sicuramente ci sono tanti aspetti che possono variare, ma credo che siamo sempre più vicini ma ci siamo già sicuramente alla capacità di poter riprodurre fedelmente, ma anche quasi riconoscibilmente, una voce umana da una invece generata. Pazzesco. Perché comunque sono modelli di apprendimento. Quindi più apprende, più una ripetizione crea sì. Adoro fare questi discorsi, soprattutto poterne parlare con una persona che ci fa da eco a vicenda. Io lavoro molto con le persone che parlano, specialmente perché lavoro nella, spesso mi capita, e più in passato, però lavoro con la pubblicità e quindi con i voice over, con gli speakeraggi, ed è un bel tema questo che comunque si sta affrontando. E non, cioè, per quanto riguarda qua in Italia, tanto sarà tutto una a cascata di quello che succederà in America. Però comunque, cioè, le persone sono preoccupate, ovviamente. A me ci credo. Beh, anche un'altra, giusto perché si sta toccando questo argomento di affermazioni, di parole che influenzano, più le si dicono, più una persona mi ripete sei bello, giusto, sempre con l'intenzione pura, nuda e cruda e non secondo fine, quindi col calore, la vibrazione bella. Uno può dire anche sei un coglione, che però ha detto col cuore, anche un vaffanculo, ma hai rotto il cazzo, muoviti, però ha detto col cuore, si sente. Cioè, se un amico ti dice minchia basta, cioè fatti una vita, vai avanti per favore, cioè ti vedo a merda, vai, si sente che hai detto col cuore. Anche quando pensa minchia sei bellissimo, si sente che è falso, magari c'è il doppio fine, le vibrazioni non mentono. Con questo, giusto per ogni tanto slittare sul sempre sul religioso, spirituale, esoterico, le preghiere, cioè non c'è preghiere o mantra, non c'è più grande ripetizione sonora che condizioni in maniera positiva o negativa. Diciamo che sono la radio del passato un po', sono la propaganda del passato e anche del presente tuttora, che esistono ancora, grazie a Dio, le preghiere, i rosari. Ecco, i rosari magari erano i mangiacassette di un tempo, con l'aiuto delle dita, che però producevano, diciamo, questo lavaggio nel cervello in maniera positiva e negativa. Dipende dall'uso che se ne fa, come qualsiasi oggetto. Un coltello può essere usato per tagliare burro o anche per ammazzare una persona. Quindi anche questo è importante, le preghiere. Quindi è bello anche non buttare via tutte le cose della religione o di Gesù, di Dio, ma prendere ciò che fa bene e capire anche il motivo per cui fanno bene. Certo. Quando ripeto mille volte Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu, la mia testa inizia a pensare c'è questa figura femminile che è piena di grazia, che il Signore è con lei, che quando dico Signore, Padre del cielo e della terra, creo questa continua registrazione nella mia testa che mi porta a credere a questo. Stessa cosa quando una persona mi dice sei bravo, stessa cosa quando una persona mi dice sei un coglione. Certo, no, sono completamente d'accordo. Un'altra cosa, soprattutto, che credo che di buono possano fare le preghiere è appunto la possibilità di metterti a confronto e a parlare, se vogliamo dire, se vogliamo usare il termine, ma completamente a cuore aperto. Di solito quando fai delle preghiere è perché veramente speri tanto che quello che preghi accada. E quindi sì, sicuramente, cioè sono abbastanza convinto che ha delle ripercussioni, quanto più lo si faccia e quanto più ha effetto. Sì. Infatti io consiglio, anzi, piccolo, che da un po' vanno molto questi un mese di, no, le challenge, cioè il dry January, il no shaving November, tutte queste cose. Io vi propongo una cosa che anche in campo spirituale viene fatto, ad esempio quando avevo fatto il secondo livello di Reiki mi aveva detto la mia maestra che devo fare per 21 giorni questa pratica di cose, di queste pratiche di Reiki, come per 21 giorni ci sono molti cicli, come ecca la luna, anche il ciclo femminile, per favore, se c'è una donna ascoltatrice o comunque segua prettamente il ciclo della luna, o comunque un ciclo non di un mese ma un po' di meno, comunque c'è bisogno di una certa ripetizione di tot giorni, di una certa frequenza, anche quando si dice con gli esercizi, con qualsiasi cosa, per creare un'abitudine forte all'interno di noi ci vogliono un tot di giorni di ripetizione, quindi deve essere ripetuta un tot di volte questa cosa perché si sedimenti. E giusto, appunto, dico questo perché mi piacerebbe proporvi, invitarvi a pregare per 21 giorni. E con pregare dico, ho iniziato da poco e ho visto gli effetti dopo infatti un tot di settimane, e non dico mettermi a dire Dio, che sia Dio religioso, che sia Allah, che sia Yahweh, che sia Brahma, Shiva, Vishnu o il diavolo, in senso mettersi lì in ginocchio così e rivolgersi a un Dio, a una figura che per noi è l'impersonificazione di amore, di, ecco, quando si riesce, a proposito, parlo giusto di Dio nella scorsa puntata, perché per questo dico qualsiasi Dio, qualsiasi corpo che rappresenti dei valori o comunque d'amore, di gentilezza, non dico ste robe intendendo amore hippie, ma nel senso di buono, cosa si può fare di buono in questo mondo, e ringraziare questa figura che alla fine non è nient'altro che un corpo creato da delle idee, da delle scelte dentro di noi, ringraziarlo per tutto ciò che è accaduto, che rispecchia questi valori, che rispecchia questi desideri, che è accaduto durante la giornata. Tipo, non so, ad esempio, io credo in un Dio che faccia, che metta l'amicizia e l'amore tra le persone al di sopra di tutto quanto. È uno dei 10 comandamenti. Quindi appena arrivo a casa la sera dico: grazie Signore, grazie Pier Giorgio, chiamate il vostro Dio come vogliate, per favore, grazie perché oggi ho avuto una bella discussione con questo mio amico, e credo di potervi quasi promettere, giurare, che il fare questo, il notare, l'essere grati, perché qua si parla proprio di vibrazione di gratitudine, il notare questi eventi accaduti, queste risonanze nell'universo che sono accadute, che rispecchiano quello che noi amiamo, quello per cui noi preghiamo, non farà altro che aumentare la ripetizione di questi accadimenti. Perché il cervello si setta in una maniera per cui dico: cacchio, ma le senti ste belle vibrazioni che sono grate perché questo è accaduto? Sì, famolo di nuovo, mettiamo in moto tutto quanto perché accada. Se io dico, esempio proprio, un esempio, se io dico mamma, e so che se dico mamma, uso queste lettere, queste vocali, queste consonanti, chiamano una persona che mi dà affetto, una persona che mi dà amore, no, minchia, uso sto nome 40.000 volte al giorno, soprattutto quando ne ho bisogno. Se so che se dico papà, chiamo un essere, una persona che mi dà supporto, mi dà forza, cacchio, userò papà. Perché i bambini chiamano mamma e papà, sono le prime parole? Perché danno quell'amore che inizialmente si sta ancora imparando come funzioni. Quindi questo anche per ritornare a dire: per favore, siate consapevoli di ciò che desiderate, quale Dio pregate e quali parole usate. Ogni nome, ogni parola, ogni vibrazione produce un suono, una chiamata, e tutto, vi assicuro, tutto risponde a una chiamata. Quindi spargete del bene, che fa solo bene. E bentornati. Abbiamo qui con noi un secondo ospite che sentivo molto calorosamente di invitare, che è un'altra figura importante di Alge, Giovanni. Tutto panni. Giovanna tutta panna è qui con noi, e ho sentito di invitarlo per il fatto che lui tiene un altro bellissimo programma radio. Bellissimo, è tutto a dire. Molto bello, particolare. Un'altra voce molto, credo, interessante da ascoltare. E che, se non erro, per favore correggimi se sbaglio, parla di complotti. Ah sì. Quindi, cioè, parla, ci prova, sì. Divaga. Prova a parlare di complotti. Suona come complotti, ma non... vibra. Vibra come complotti, come complotti, ma non... ci gira un po' attorno. E questo giusto perché mi veniva da... ho pensato a Giovanni che durante la pausa, perché prima si è parlato con Francesco del fatto che comunque ogni corpo, ogni oggetto produce un suono, quindi che possa essere udibile o no, che possono essere quelli che vengono chiamati messaggi subliminali o certe frasi, certe vibrazioni, sono nell'aria, anche se noi probabilmente non ne siamo consci. E mi farebbe piacere se una condivisione da parte di Gio riguardo questo, che mi è venuta un'idea. Complotto o non complotto, è oggettivo che ci siano vibrazioni e suoni tutto intorno a noi che non possono essere percepite, quindi è probabile che possano essere usate o Beh, sì, ci sono tantissime teorie filosofiche e non riguardo a, alla possibilità di interagire con l'universo tramite le vibrazioni del pensiero o della preghiera. E è bello che si ricollega prima. E sicuramente è un tema molto vasto che va al di là poi di complotti, l'universo. Del complotto, ma è proprio insito nel... nella cultura, in tante culture diverse, poter attrarre o il poter ricevere o il poter influenzare la realtà tramite semplicemente appunto una, un pensiero che può quindi tradursi in suoni o vibrazioni. Sì, io penso tavolo, vibro come un tavolo, quindi mi arrivano i tavoli, per dire. La legge della la famosa... È partita l'immagine mentale di uno che... vedi, tavolo. Lo vedi concentrato che pensa a un tavolo, sì, e volano, sì, tavoli. È un po' quello che è alla base della legge dell'attrazione. Ecco, questa è un'altra cosa di cui volevo parlare. È grande Giovanni. È comunque abbastanza complottistica, perché... è un libro che, per quanto semplice, ha fatto milioni e milioni di copie, è venduto in tutti gli autogrill del mondo e in tutte anche le librerie, per carità. Però la verità si può trovare ovunque, sia da un barbone che da un riccone che da un monaco, ricorda, anche in un autogrill. E che in verità è comunque in quella categoria di libri che serve, cioè che si chiama più o meno... per la crescita personale del sé, per la cultura del sé, per il miglioramento personale. La consapevolezza. Quindi non è sicuramente un qualcosa di negativo, poi da lì a trovare... cioè non si può dire che sia un complotto, sì, né negativo né positivo, yeah. Diciamo, giusto come si diceva prima, un coltello può essere usato per spalmare il burro e può essere usato per uccidere una persona. Quello per spalmare il burro è difficile ucciderci una persona. No, nel senso un coltello. Sì, ma tu usi il coltello per il burro. Per sì, assolutamente, no, assolutamente. Dipende dalle intenzioni di ogni persona. Cioè, c'è chi non ha mai usato un coltello per spalmare il burro e c'è chi non ha mai usato il coltello per uccidere una persona. Però se usi un coltello da cucina per spalmare il burro, vibrano in maniera strana. Questa è una chicca. Il coltello per il burro vibra come il burro. Mi viene in mente l'episodio della serie. Però questo potrebbe essere anche che sia un... Anche te, per favore, Fra, se vuoi infilarti. Cioè, se vai... hai presente quello che è per i ricciolini? Stavo pensando alla riccia spiccia della sirenetta. La riccia spiccia, cos'è? Che c'è questa scena della sirenetta dove sullo scoglio tira fuori insieme a Flander, al pesce, sto sacchetto di meraviglie che ha trovato nel fondo dell'oceano. E tra queste cose c'è una vecchia forchetta... E non mi ricordo come si chiama il gabbiano che fa tutto il saccente su ogni sul cosa mondo del mondo degli umani. E Ariel gli chiede: ma cos'è questa? E lui gli risponde: questa è una riccia spiccia e serve per arricciare i capelli. E vedi lui che si mette il coso e fa pom e si fa i cosi, quando in verità serve per mangiare. Ma perché io devo usare per forza una forchetta per mangiare? Però vibra uguale, vibra è un uguale. Pettine alla posso fin usare, dei conti, certo. Posso usarlo per fare tipo per arare un piccolo terreno. Certo, ci metto 90 anni per arare il terreno, posso usarlo per mangiare. Dipende tutto dall'uso che si faccia. Come un coltello, come un qualsiasi cosa, può essere usato in tutti i metodi. Certo, se per anni e anni mi è stato insegnato che questa roba deve essere usata solo per certe cose, la userò per quello e non mi verrà in mente di usarlo per altro. Questo è un consiglio per rimanete plastici mentalmente, signori e signore, per favore. Sì, storicamente anche il pensiero ha avuto una considerazione diversa in diverse epoche storiche. Quindi ci sono tante epoche storiche in cui magari il pensiero viene svalutato come potenza, tra virgolette, e altre in cui viene rivalutato più o meno scientificamente. E quest'epoca in cui viviamo è curiosa, perché tutto deve essere molto rigorosamente provato a secondo un tipo di metodo piuttosto che un altro. E comunque, nonostante ciò, al di là di poi la legge dell'attrazione piuttosto che altri tipi di di idea del pensiero, mm-hmm, e dell'universo. Comunque il pensiero è valutato come un'arma, tra virgolette, molto potente. Sì, gli è dato per il benessere, per la creazione, per la progettazione della propria persona e del mondo che ci sta intorno. Giusto prima che si parlava di come se una persona fin da quando sono piccolo mi ha detto, o quando ero piccolo mi diceva brutte parole, quella cosa è rimasta dentro, aveva un potere negativo, come anche se nutro delle persone o con giuste vibrazioni, dicendo frasi belle o pensieri, mm-hmm, belli, va a nutrire in maniera positiva questa persona. Come oggigiorno esiste anche proprio come lavoro, che sta avendo una grossa esplosione. Vedo nell'ultimo periodo la figura del coach, del mental coach, o in generale del comunque health coach, della valutazione ingegneristica della realtà, piuttosto che progettuale, economica, in cui comunque vuoi mettere un certo tipo di pensiero programmativo e progettuale a una realtà che vuoi creare, piuttosto che crearla e basta. E lì anche viene valutato il pensiero come azione che crea. E mi ha fatto venire in mente questa cosa delle buone parole dai piccoli, che molte culture o persone, ci sono dei detti popolari che dicono: se dici no troppe volte a una persona, a me è capitato, per esempio, me lo dicessero di quando ho tenuto un cane una volta, gli viene l'otite. Veramente? Quindi non devi sgridare troppe dicendo volte no, no, no, ma piuttosto trovare dei modi giocosi o alternativi per cercare di far capire una cosa, piuttosto che un comportamento che non è accettabile o insomma non va fatto. Perché si dice che se dici troppe volte no, viene l'otite. Wow. Cioè di come il potere della parola possa avere effetto anche sul corpo stesso, cioè che crei pazzesco. Qua mi viene, non mi ricordo se ne avessi parlato anche nelle altre puntate, mi sa di sì, di come anche cioè le somatizzazioni siano delle conseguenze dei pensieri. Sì, ne ho parlato. Delle somatizzazioni dei pensieri o delle parole, cioè ad esempio, non so, una psoriasi, un orzaiolo, un herpes, cose così, sono degli sfoghi di vibrazioni, energie che non vengono sfogate, o comunque di pensieri negativi, come dire, anche alcune posizioni, alcuni rincagnamenti. Sì, sì, per questo scientifico. Dicevo anche dal punto di vista storico, tante volte si è applicato magari il salasso, l'acqua con i cocci di vetro alla Dr. House della Jalapas Band di Mai Dire Martedì per curare qualcosa, e altre volte invece storicamente i medici hanno detto: sei stressato, prenditi una settimana, vai al mare, e per invece dei sintomi fisici effettivamente, no? E adesso ovviamente si sa che il benessere non è solo fisico o solo psichico, ma è psicofisico, che è il sistema immunitario, è un sistema olistico, che tutto collabora con tutto il corpo, e che quindi ovviamente può fare insorgere qualsiasi cosa, come un momento di debolezza psicologica, psichica, può far scendere le difese immunitarie e farti venire un raffreddore, piuttosto che qualsiasi cosa. Che bomba. Quanto potere abbia la parola, di quanto potere abbiano delle vibrazioni, o comunque di quanto potere ha il nostro modo di interagire con le persone intorno a noi, anche gli animali, o comunque tutto quanto. È nella prima pagina del manuale di sopravvivenza, sì, c'è la parola resilienza, okay, ovviamente, che è una questione psicologica, soprattutto al di là della resistenza fisica, serve anche resistenza psicologica per riuscire a sormontare con una positive attitude e una good vibe tutte le situazioni, perché sennò ci si scoraggia da soli e ci si blocca, insomma. Lasciare andare via, digerire, ecco, che anche questo l'avevo detto, è la testa, il pensiero funziona esattamente come il sistema digestivo: lasciare andare via le cose negative, lasciare che vengano, per favore passatemi il termine, cacate. E come questo, sentite che quanto questo essere faccia bene, e lasciarsi nutrire. Cioè, quando si dice noi siamo quello che mangiamo, è anche vero che noi siamo quello che diciamo, siamo l'ambiente in cui siamo, quindi a seconda delle vibrazioni di un certo posto, di certe parole, fanno effetto. Cioè, non lo si dice, una volta magari si diceva non bisogna dire questa parola perché non è bella, perché è maleducata, perché è una questione oggettiva di salute e di vivere bene. Alcune parole, alcune vibrazioni fanno bene, alcune fanno male, come giusto diceva Giovanni, arrivano anche ad avere il potere di abbassare le difese immunitarie, o comunque di far sentire male, o anche comunque di creare dei limiti nella testa e quindi anche nel corpo. Se una persona mi dice tu non puoi far questo, non ne sei capace, sei un impedito, ma sì, sei uno stupido, cose così, arriverò a crederlo veramente, quindi a non farlo più. Qui già è un'interazione tra più. Cioè, mentre magari prima pensavo a una discussione sul il sé e la verbalizzazione di qualcosa, e ho portato un esempio dell'animale, quindi del cane, a cui può venire l'otite. Già nel momento in cui si instaura un dialogo tra persone, lì c'è anche la capacità di chi ascolta, quindi come di ricevere quelle vibrazioni in un determinato modo piuttosto che in un altro. C'è la c'è la resilienza di chi parla, ma anche di chi ascolta. C'è la capacità di comprensione di quella vibrazione, quindi di quel significato che uno dice e l'altro riceve. Per questo è anche molto importante ascoltare e capire, essere consapevoli dell'effetto di una vibrazione. Cioè, di che effetto fa. Questa è un'altra meditazione. Consiglio di andare a vedere invito ad andare a vedere su internet la meditazione che si chiama Metta, che è della gentilezza amorevole, che propongo ogni volta che c'è un incontro di meditazione per capire l'effetto potente che abbiano dei pensieri amorevoli, cioè di quanto delle vibrazioni amorevoli facciano bene al corpo, e quindi di conseguenza si deduce che delle vibrazioni negative facciano male. E ho anche, come si diceva prima con Francesco, di come se un qualcosa mi viene detto tanto, il mio cervello risuona e quindi continua a ripetermelo in testa. Magari una persona che mi dice, ah, sono... no, che coglione che sono, che stupido, è perché l'ho sentito talmente tanto che continuo a ripeterlo. Quindi, giusto, dicevo, sia in comunicazione tra più persone, tra più esseri, sia anche quando oramai diventa parte di me. Cioè che lo ripeto io anche quasi inconsciamente, non quasi. Beh, è importante diventare consapevoli di cosa genera la mia mente. Certo, per restare in tema complotti, è anche una delle principali vocazioni dei mass media, quindi ripetere a cannone qualsiasi messaggio che voglia essere recapitato, piuttosto che il completo nulla. Genericamente parlando, il nulla dal punto di vista del contenuto, di significato, semplicemente per fartelo poi avere tu in testa e ripetere in modo tale da influenzare i tuoi comportamenti in base a quanto tu sei conscio, consapevole del messaggio, di come l'hai ricevuto e di come lo interpreti nella tua realtà quotidiana. Ma se ci pensi, è uno strumento che ha plasmato il Novecento, ha plasmato la Seconda Guerra Mondiale, prima della televisione e la radio, e sono strumenti fortissimi. Ancora molto potenti e usati. Certo, quante pubblicità ti ricordi a memoria e quante poesie. Quali? Esatto. Fortunatamente ho smesso di vedere la pubblicità e la TV tanto tempo fa, e ogni tanto la guardo. O quante sigle. Piuttosto che le sigle di cartoni animati Cioè, se tu fai una comparazione tra quanto intrattenimento ti ricordi rispetto a quanta arte ti ricordi, e spesso le due vengono confuse, ti rendi conto effettivamente di quanto è potente lo strumento dell'intrattenimento piuttosto che del... Per questo credo che sia molto importante la passione che si mette, tipo che ci mette un insegnante o un programma. Secondo me sarebbe bello anche provare, tipo, a fare un programma artistico con un modo di fare diverso. Cioè, piuttosto che dire, sì, nella notte di Natale dell'Ottocento Carlo Magno venne incoronato la corona ferro, direi, minchia ragazzi, cioè Carlo Magno ha fuso i chiodi della croce di Cristo e se li ha rivenduti al chilo. Li ha rivenduti al chilo, uno dei 1600 miliardi di pezzi, di cui uno c'è anche al Duomo di Milano, giusto per fare un po' di... Cioè, beh, i grandi divulgatori hanno un loro sono, quello, sono quello. Come si chiama quello che è morto non tanto tempo fa, bravissimo, con gli occhialetti, che aveva un suo stile, credo che per questo abbia avuto un ascolto così forte. Com'è che si chiamava? Aveva un nome mezzo francese. Ah, Daverio. Daverio, che lui secondo me è diventato come anche Piero Angela, cioè sono diventati famosi perché, o Cecchi Paone, cioè perché avevano un loro stile particolare, delle certe vibrazioni che secondo me facevano passare molto di più, nel bene o nel male. Come dire, anche un Hitler, un Gandhi, un chiunque viene ricordato per lo stile. Cioè un genio del male o un genio del bene viene ricordato per uno stile. Sì, sì, indipendentemente dal contenuto e dal significato che cerchi di trasmettere, soprattutto come lo trasmetti, come l'abilità influisce molto, soprattutto per quanto riguarda i grandi numeri. Se poi devi avere a che fare con una persona, è molto difficile probabilmente che, non so, uno a uno Hitler contro di te ti urli addosso, te ne vai, ti arrabbi, cioè non lo ascolti più, mentre sì, sì. Gandhi uno viene contro uno vi abbracciate, sì, no? Sì. E invece sui grandi numeri cade quel... Beh, oramai sono anche più subdoli quasi, perché la TV è un mezzo più subdolo quasi, certo, direi, certo, che un Hitler. Cioè se io vedo questo beh, qua che urla... Era abbastanza subdolo anche lui. Immagino, perché per essere arrivato fin lì ed aver preso il numero che ha avuto, diciamo, in maniera diversa. Però sì, sì. E boh, tutto questo direi che... Con tutto questo... quello di cui si è parlato, spero che sia passato il potere della parola e delle vibrazioni del suono del complotto. Però sono contento che sia stato visto in una maniera più che complottista, cioè neanche complottista, in maniera oggettiva, come un complotto può essere anche oggettivo, cioè non è complolistica, ci sta, di come ma perché tutto è un complotto. L'effetto perché farfalla. È tutto un complotto. Beh, in verità, esatto. Lei, French, Cole, vuole dire qualcos'altro? No, nient'altro. Che vuole condividere di bello, qualche bella vibe che vuole condividere, consiglio? Ascoltate tanta buona musica. Lo so che Sanremo è bello, ma davvero, se ci si perde nell'etere di quello che ci si può ascoltare, anche a livello meditativo ci sono tanti suoni e tante canzoni, tante produzioni che sicuramente fanno riflettere tramite i suoni rispetto a chi con semplicemente le parole. E niente, approfittate per se vi va di scoprirli. E ecco, se volete consigli, chiedeteceli. Vorrei chiederti una cosa, l'ultima domanda, promesso. Poi, a proposito di musica, ho sentito ultimamente parlare di come si chiama? Segnali binauri, musica bineurale. Perché ho sentito che è molto potente come effetto. Cosa si è consigliata, se che ero lì, oddio, lo faccio o non lo faccio? No, sicuramente è consigliato se si vuole avere un'esperienza più immersiva dentro la musica. Di fatto, in cosa consiste? Normalmente vengono utilizzati microfoni, anche tecniche di microfonazione stereofonica, ma la tecnica bineurale nasce attraverso una tecnica che si chiama ORTF, che si intende nella creazione proprio di due apparati uditivi umani, quindi due orecchie finte dentro alle quali vengono posti dei microfoni distanziate con quella che è la dimensione della scatola cranica, e poi vengono fatti girare i suoni attorno ad essa, in modo tale che tu, quando ti metti le cuffie, perché poi la musica bineurale può essere soltanto apprezzata in cuffia, il movimento dei suoni attorno a questo piccolo umano costruito, molto immersiva. L'obiettivo è quello. passa di più, cioè ha un effetto più, cioè il messaggio, il suono arriva meglio con questo più immersivo, cioè ascoltare, sì, non so, se ascolto, da dire, Jolin in col binaurale o non binaurale, ha un effetto più forte sul mio cervello o no? Ma dovrebbe suonare davanti a un impianto di registrazione, come l'hai chiamato, ORTF. Nel senso, se tu riproduci della registrazione, cambia l'effetto che ha sul cervello proprio se io faccio una registrazione in un qua modo o nell'altro. Bisognerebbe aprire dei paper. Sì, infatti di solito, cioè, comunque considera che è nata la musica, poi è nato il modo per registrare la musica e si utilizzava una traccia monofonica, quindi non c'era neanche la spazializzazione sinistra destra, e poi è nata la stereofonia. La stereofonia ha avuto diversi livelli di manipolazione. Noi siamo abituati dagli anni fine 800 ad avere comunque una sorta un mix, che vuol dire una restituzione all'ascoltatore di una registrazione in maniera stereofonica. Con l'avvento di questa tecnica si è voluto dare un livello in più di immersione, quindi oltre ad avere quello che è sinistra e destra, la tecnica ORTF ti permette di avere la percezione di avere un avanti e dietro. È un po' come se la ascoltassi dal vivo, no? Perché il sensore tende a... vorrebbe replicare il sensore acustico umano, okay. E quindi riascoltandolo in cuffia, quindi in prossimità, è come se fosse dal vivo. È come... sì, vorrebbe riprodurre quello. Quindi è più caldo, è come vedere un film su pellicola e un film in digitale. È come vedere uno spettacolo teatrale dal vivo piuttosto che uno spettacolo teatrale registrato su uno schermo. Bello. Beh, figo, cioè, però immagino che il cervello lo prende. Riguardo a questo, io tipo diversi anni fa, si parla di, non so, 15 anni fa, ascoltavo in cuffia binaurali che andavano su YouTube, c'è stato un picco a un certo punto, ed erano principalmente segnali stordenti, okay, quindi non c'era il concerto di qualcuno in binaurale, piuttosto erano dei segnali monotonici, e quindi una frequenza rimbalzata da sinistra a destra in modo tale da aiutare piuttosto che disturbare, una sorta di stato di meditazione e farti sballare. Oddio, tra virgolette. Sì, tipo... perché sì, tu cercavi proprio i video, non so, girava sta cosa dei binaurali per sostituire le droghe, per esempio. Quindi cercavi marijuana binaural. Ok. E tu ascoltandolo, in teoria 15 minuti di traccia che faceva tipo wow tra sinistra e destra. In teoria in 15 minuti di meditazione con questo dovevi risultare poi effettivamente alterato. Io ne ho provate parecchie, ma a parte delle particolari meditazioni non ne sono uscito devastato, okay. Ecco, magari più che l'effetto era la nausea che ti... sì no, comunque erano importanti da sostenere, e mi ricordo di aver letto riguardo un riassunto di una ricerca per effettivamente capire l'efficacia di questi segnali sparati in cuffia, in particolare su questa simulazione di segnali a monofrequenze. E varia molto a seconda del soggetto, okay. Quindi c'erano soggetti che riportavano stati di alterazione, soggetti che non riuscivano a finire di ascoltare la traccia perché è abbastanza molesta comunque e soggetti che non provavano niente, piuttosto che tante varie altre casistiche. Quindi questo anche molto probabilmente per traumi o al sistema uditivo o psicologico. O perché ognuno riceve una vibrazione in maniera diversa. Bella. Wow. Grazie mille. Complimenti. complimenti a voi, ragazzi. Grazie mille della vostra saggezza e di aver condiviso le vostre esperienze, quello che sapete, quello che vi appassiona. E grazie Beh, mille. Potremmo lancio una marchetta a Audior. Audior? Sì, è un'associazione che si occupa di spazializzazione del suono. Perfetto, tutto ciò che è buono, bello e possa nutrire questo mondo. Lancio questa marchetta. Cercate Audior e troverete. Ma costruiscono degli impianti audio in tre dimensioni, quindi non è più left, right e basta, sinistra, destra. Ma va poi a riprodurre quello che diceva Coli dell'avanti e indietro e anche di differenza di frequenze a seconda dello spazio. Belle. Sono fortissimi. Grazie. Dante Tanzi e Eraldo Bocca di Audior. Belle. Grande marchetta per loro sempre comunque. Usatelo per ascoltare musica che faccia bene. Ecco, un'altra cosa che guardavo sempre consapevolezza. Adesso cerco di impacchettare tutto quanto. Nel senso, per ritornare alla fonte di ciò che ho scelto qualche anno fa di iniziare a fare, ossia di meditare, di condividere le mie esperienze meditative e guidare più meditazioni possibili con le persone, coltivate la consapevolezza, nutritela per favore, questa consapevolezza vi invito a nutrirla in tutti i momenti possibili, dalla musica che si ascolta, che ascoltate, dalle vibrazioni in cui siete immersi, dalle persone che scegliete con cui stare e dagli ambienti con cui scegliete dove scegliete di stare. Perché, come si è detto in questa puntata, tutto è vibrazione, tutto ciò che vibra produce un suono. Quindi consapevolezza su ciò in cui siete immersi. E per favore, chi se la sente, anzi fatelo! Provate a pregare per 21 giorni o almeno arrivare a fine serata e fare l'esercizio di gratitudine, di essere grati per tutto ciò che è accaduto durante la vostra giornata, parlando ad alta voce se possibile, che fa più effetto, su ciò che è accaduto, che siete grati e che rispecchi ciò in cui credete che possa fare del bene. Tipo, ho incontrato una persona, ho mangiato il cibo che mi piaceva, ho parlato con mio papà dopo anni. Qualsiasi cosa che vi abbia fatto sentire gioiosi e per cui provate gratitudine, vi assicuro, ne sarete felici. Detto questo, grazie dell'ascolto, grazie ad Exalge per ospitare, grazie a queste due fantastiche persone di Exalge. Grazie Enrico. Grazie. E beh, alla prossima, al prossimo episodio, che non so ancora di cosa parlerà. Spero, a vedere. Bella. Buona serata, ragazzi.